beh, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. E beh, Lillo, giù la pasta che è pronta. Oh yeah. E lui, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Ma cosa parli? Ehi, Alberto, no, qui sto cucinando un po' di spaghetti di luglio prima di andare a lavorare, che all'inizio ci ho cucinato i rotti. E fai bene, cucina, cucina, sennò poi stanotte viene fame. Faccio io come lo fa nessuno, io vivo da solo qua. Lo so che vivi da solo, ma per quello ti sto dicendo cucina, cucina, sennò stanotte ti viene la bianca. Non fa mia, sennò quando sono più riposo, per fare un po' di movimento. Buonasera. Ehi, buonasera. Avanti. Ciao Tore, ciao Manuela, mi sentiti? Non so se ci sia qualche un altro perché ho acceso adesso. Avanti Tore, di nuovo tu puoi girare per Manuela. Buonasera signor Gianni. E allora cosa ci dici? Mi stavo facendo un po' di faccende a casa e ho acceso adesso perché ero impegnato, mi stavo lavando un po' di roba, tappetini, insomma tutte le cose che non lavo tutti i giorni, i tappetini del bagno, tutta la roba lì. Sei diventato casalingo, Tagira. Anda e muovete. Sì, se te la fai dove te la fate nessuno. Beh, veramente non sono da stasera a casalingo, sono già da un bel po'. Manuele, avanti. Manuele, a fine disastro. Devi lasciare andare a girare la ministra. Devi lasciare andare. Anche lui si sta preparando per mangiare. Perché che ore so? Devi andare a lavorare, devi andare. Sono le 7:15. Ma lui è tra le 10, mi pare, fa dalle 10 a domani mattina. Curugi, a te la rimani di inutile, guarda. Anche oggi ha detto che era. Anche oggi era di notte. Per me che è pesante, mi pare. Due notti di seguito così è pesante. Io mi ammetto che ero più di un mese che non faccio a di notte, ma rileggi sino alle 5 del mattino. Anche la notte voi facevate perché? Molte volte sì, che non operano il cambio, che ero qua nel cambio nel quarto. Allora dovevi entrare di notte per forza. Ma pigliavano sul cambio. E così, purtroppo. Quando c'erano questi casi qua, ma non è che tutti i notti ci sono, solitamente, vabbè, e tanto è mattina presto sempre. Purtroppo sì, è una cosa che dovevi lavorare anche di notte. Tati, cosa ti direi, che non se ne facciano i cambio, non si facciano e dovranno lavorare di notte. Io penso che stiano lavorando di notte. Perché se no ce la fanno la mattina sopra. No, non ti sei troppo lontano dal microfono, sì. Ma lo devo alzare, se lo devo alzare dimmelo che lo alzo. No, se ti avvicinavi al microfono era meglio. Solo vicino al microfono, aspetta. Forse c'era il mic che viene abbassato, guarda adesso. Adesso va benissimo, adesso ti ascolto bene, ma ancora non ti ascoltavo per niente. Perché deve essere che è spolverato la bassa del Maichighese, stare nel Maneconco. Felice, che non ti sentivo. Vabbè, non è successo nulla. Manuele, non mangiare, che ti fa ingrassare. Se non mangia, se non mangia rimane a digiuno, saluti, funziona male. Io intanto non deve dormire, non deve stare sveglio qui. Si è mangiato un bel di droga. Infatti, se mangia da un metro di mesi. Invece quando non mangia, ha fame e resta sveglio. Certo, è così, infatti. Comunque ti piace questo microfono? Questo qui è quello della vela me che ho ordinato da internet. Oh, avvisano. Andiamo bene. Beh. E allora, scopo, già vi racconti di pezzi. Io già vedete racconti. Ci rimanzava giù ho spedito una raccomandata di del coso, dei condizionatori. Come una raccomandata? No, la garanzia. Dovevi spedire la garanzia dei condizionatori tramite raccomandata. Ma li messi da poco? Lunedì me li hanno messi, due, uno in questa camera e uno nella camera mia. No, io invece li ho messi uno grande in sala che praticamente rinfresca tutte le casse. È grosso però, e rinfresca tutte le camere. Io ne ho messo uno solo e la reattore l'ho messo in terrazza. No, io due di quei tre ce li avevo già, uno in sala da 12.000, uno in soggiorno da 9.000, uno in cucina da 9.000 e due da 10.000 e questa è nella camera mia, pare che io. No, ma io, vabbè, la mia la casa non è grandissima, è 95 metri quadri, poi vabbè, con i terrazzi anche di più, però ce la fa tranquillo, capito, uno va bene, cosa vuole giù? Oh, questi due che ho messo non consumano nulla, sono più. E poi sotto me più. E che marca sono? Arie sono. Ah, quello di Frontotone sono. No, questi vengono da fuori, vengono. Da fuori? Ah, perché ce n'è uno a Frontotone, mi pare che piazza con la marca di vuole sbagliare, ma mi pare che era quello lì. E vabbè, è interessante che andi a livello, è provato. Sì, li ho già provati, è cardinale puro, a rinfrescare devo aspettare adesso a luglio, se fate che tu guardi un po' che hanno abbassato. Poi non è detto che ci dobbiamo preparare tutta la roba se dovesse scoppiare la guerra, dobbiamo avere tutti le cose per la sopravvivenza, dobbiamo... è vero, questo già è vero, ma speriamo che si muoiano a posto. Ma è quel fattente di Putin, ecco cosa è, che lui vuole guerra, e se la vuoi pigliare granato se la vuoi pigliare. Un casino, ma se si rabbia granato si rabbia l'anime, anche granato sono un bel risultato, è un bel negozio, anche se c'è lui, c'è i razzi nucleari, non fa in tempo a cavare i cavannini. Ma speriamo che ci mettiamo d'accordo, perché manca solo quello, guarda, tutte le disgrazie che stanno succedendo. Lui vuole discriminare l'Europa e l'America, nel compreso, e ce l'ha anche contro l'America, ce l'ha. E perché abbiamo aiutato come si chiama? Abbiamo aiutato un'altra storia, come l'Ucraina, che praticamente l'abbiamo detto armi, eccetera, capito? Per andare contro di loro, è normale che ce l'abbiano con lui. Ma è stato lui mica l'Ucraina, lui si doveva lasciare in casa sua e non attacca nessuno, perché si dice è una potenza, però non dovrebbe attaccare così. Ma noi ha chiesto all'Europa a togliere le sanzioni, e l'Europa gli ha risposto di ritirarsi direttamente senza chiedere nulla. Andarsene, mi pare che l'Europa non agisce mai. Invece gli altri, senza fare bla bla, agiscono, e vedi come. Noi parliamo, però da agire, mi pare che non agiscono un capo. Perché non ce ne sa se entrano. No, io dico, la vita è una, ma perché non te la godi bene? io me l'appoggio, tutti e due. E io te la sparo. Hai visto. Ciao, arrivederci. Ehi, è un casino, Se non si pone d'accordo qua, finiamo male. Sì. Cosa vuoi fare? Va, a un certo punto. Se la biglia è Napoli, la biglia. Quindi. Cazzo. 1-2 stato Reggio. Bello male, è strano. Siamo a posto. Antonio, come vi senti di radio? Bene, chiara. Perfetto. Senza sapere di salute, io sto usando l'LMS 200. Ah, dal me ne sono accorto, infatti mi sembra bravo. Ho detto, c'è qualche apparato modificato l'LMS 200, perché ha un bimbo particolare. E da quando ce l'ha quello con l'apparecchio nuovo? Ehi, me l'ho comprato quello di Antonio, Me l'ho comprato e lo sto usando io. A me piace quell'apparecchio, io lo amo. Poi mi aveva fatto la corte l'attalino, dammelo, l'ho portato l'attalino. E poi dopo un po' di tempo ce l'avevo venduto. Ma quell'apparecchio lì a me piace, perché ha le manopole belle grosse, poi c'è canali che continuano. L'unica cosa che non mi piace è che è marrone, è il marrone l'occhio. Vabbè, ma già esce bene, comunque, cosa vuoi di più? Non è come gli apparati da adesso che stanno sfornando, a un certo punto vai a ripararlo e ce lo butti nella mondezza. Il discorso è quello. Questi si possono riparare, gli altri no. Quello già è vero, sono belli robusti, poi le belle S200 è bello robusto, ce l'aveva Roberto Meccanico poco tempo fa, te lo ricordo, che lo usava col salente a quello tipo rasoio da mamma. Già me lo ricordo, tutto per quello, già esce bene, ha voglia con l'apparecchio, è perfetto, me l'ho comprato, 120 euro va benissimo, lo stanno vendendo 180, stanno vendendo, quindi figurati. È bello, a me piace quell'apparecchio. È bello perché massiccio, le manopole grandi, è bello, poi i canali continui che arrivano sino a 100, di continuo. È appunto per quello, è bello per quello, non per altro, ma comunque va benissimo. Me lo tengo, me l'ho comprato e me lo tengo. Capito? Mettici Saletta a vedere come va. Vabbè, adesso Saletta è picchiato alla... ha stato, come si dice, al Kingwood e al 2009, quindi poi vediamo, c'ho il Tadeb, già lo sa che c'ho io microfoni, non è che non mi manchino i microfoni, quindi a un certo punto. No, io non ne metto di così, io ce ne ho uno per ogni apparato. Quando poi voglio fare gli scambi, li faccio e vanno bene, perché gli attacchi sono gli stessi, quindi non è che abbia problemi di scambiare. Ho capito, vabbè, fai parlare, chi era con te, lo stesso canale, adesso non lo so, la verità. Dore, avanti. Ehi. Allora, tra l'altro piantone come quello lì. Non ho capito, tu, dimmi. Certo, se un altro lo trovi come quello lì, se c'hai tu. Un altro non lo so se lo trovo, la verità, quindi... A me me l'ha dato Tore, Antonio, quello che lavorava vicino a far cuffia. A Tino, hai capito? Era a Vino, lì a Sorso, vicino a Sorso, perché? Ti piace uno di quelli, ti piace? So com'è, e me ne interessava uno. Guarda su internet, su quei siti CP che ce ne sei. Vabbè già. Su Facebook ci sono dei siti dove vendono apparecchi CP eccetera eccetera. Vai lì, ogni tanto ne mettono uno. Oppure lo cerchi, lo metti su Google e le non l'hanno toccato, sì. Quello è che non sai, se conosci la persona magari ti puoi fidare un po' di più. L'ho visto l'altro giorno, 180 euro ne volevano. Ma se ne vale, è un bel apparato. Lo so che se ne vale, lo so. Io l'unica cosa che ho cambiato qua è lo switch che non funzionava, tutto lì. Io ho messo lo switch della Intec e basta. Non ho fatto altro perché lo switch del suo non funzionava, quindi adesso funziona. Ho gatto dei 2-3 mm, come si chiama, è perfetto. E come l'hai registrato? Ho capito. Come l'hai registrato lo switch nuovo che hai messo? Non c'è da registrare nulla, no. Funziona benissimo. È uguale, non cambia niente. Ma il segnale va registrato, non è che un po' le cuffie il segnale, adesso io quando posso arrivare. Segnale dove sei? È basso il segnale, lui è basso. Dovrei arrivare di 9.20, 9.33. Allora sì che già arrivi 9.20, 9.30. Ma no, come nel 2009 arrivi così. Allora devi buttare gli apparecchi perché non serve. Ma arriviamo a Roberto Quadrato, arriviamo 9.25. Ma è una cosa diversa, io ho problemi anche l'antenna, hai capito? Ho chiesto stasera per un palo nuovo, perché il palo che ho non va bene e quindi, hai capito? È un casino. Adesso devo pigliarmi il palo nuovo, almeno 50 euro devo spendermi, speriamo bene che costi di meno, ma stacco il palo d'acqua e ci metto un palo nuovo, 2 metri per 2 metri, e ce la piglia in culo. Avanti. Non avevo niente, rubare un nuovo. Sì, il palo nuovo devo mettere, per forza, di cosa? Perché se no ho problemi in trasmissione, sia con Kenwood, sia con questo qua, hai capito? L'altro giorno ho attaccato il lineare e me ne sono accorto. Io pensavo magari fosse qualche anomalia del Kenwood, che fosse magari mezzo bruciato, invece no. Me lo faceva anche nel lineare dello speed CTE, quindi a un certo punto devo cambiare per forza il palo, non c'è massa, capito? Allora vuoi cambiare tu sì, se non c'è massa, vuole cambiare tu sì, per forza, e non funziona bene. In FM mi stava dando 30-40 watt, non di più, da 50 me ne stava dando 30, non lo so io. A un certo punto mi è sotto il dubbio, ho fatto la prova, come si chiama? E il palo. Quindi adesso appena cambia il tempo vado e mi sistemo il palo. Anche perché c'è stato l'aria, me la colgo da qua. Adesso c'ho 1 e 3. L'altro giorno siamo 1 e 5 e qualche cosa, quindi guarda sei tu. E allora mi fai da te a te, non è che ti da me, non è che hai problemi. Riguardatela bene con la stazione e poi con l'antenna come ti si tocca. Non mettere antenne di passaggio. Controllo tutto, sistemo tutto, tu vedrai che la faccio diventare come io, no? Una volta. Hai capito? C'era 1, 2, 3 l'antenna prima, adesso è oscillante, eccetera, eccetera. Picchi negativi, mi dà, hai capito? Non c'è massa, hai capito? Copparlo, quello che c'è soprattutto che c'ha più di 20 anni, che è rugginoso, secondo te cosa faccio? Io l'ho cambiato da poco, quando ho messo l'antenna nuova ho messo il palo, tirato, tutto nuovo, poi c'è tutto nuovo, borsetti, tutto nuovo, in modo che così non abbia problemi. E cosa stavo dicendo? Ma tu che antenna stavi usando? Io ho la cosa, lei le 10 cottave ce la sto usando, capito? Quindi te la accorgi subito se c'è qualche problema. E come va che c'è la stazionaria per il fatto del palo? E allora, non c'è massa, quindi automaticamente fa così. Adesso che è piovuto, le stazioni sono scese, però se non piove salgono alle 1,5, capito? Lo contrario, ma la gente quando piove rialzano a gogo. Vabbè, il vittimano, tanto il tempo che fra poco si rimette a posto, vai, se Dio vuole, perché non si sa mai con questo tempo strano, un po' piove, un po' c'è sole, un po' sembrano giornate prima avvenire, un po' cazzo, sono più c'è sole, c'è più, e vabbè. Infatti nel tempo è un po' pazzerello Marco. Adesso vediamo dal primo aprile cosa annisci. Marco è pazzerello, vedi il sole e prendi l'ombrello. Infatti è così. È così che si dice. Io ieri sono uscito in giubbotto perché c'era il sole, sono uscito con il giubbotto della casa a cominciare a barriare. Te l'ho detto, devi affacciarti prima, guardare per vedere. Se no è sempre così. Ma quando sono uscito c'era il sole. Poi sono andato da uno spino. Sono andato da uno spino e a Serra Secca a comprare il bagno di Valpertaglia. Sono andato e dopo come non entro, ho visto che stava bisogna si sta già l'ha messo ieri che pioveva ieri sera, ma stasera è così un po' proprio prescritto. Ascolta, adesso sto pompando, come sto scendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 9, 30, ok, aspetta un secondo. Stazionale 1,4, strano, perché evidentemente sta facendo la massa l'acqua, se no non è andato, scendeva uno così. Ah, vabbè. Allora, vediamo un pochettino, watt, sono quasi 80, aspetta un secondo. Regolazione. Non andavate tutti i tondi. Stazionale 1,6. Che linea deve essere usata? CT. Lo spiedi CT è usato. Ah, il BPT. Ha una valvola era quello, vero? Sì, una valvola, esatto, sì. Sì, me lo ricordo. Ce l'aveva già Paolo Silvestre, me lo ricordo. Cappa. Quanto è il segnale che arriva adesso? Molto meno, molto di più di prima? Di più non va il mio apparato. Vanno 2,30 e basta. Che al massimo. A te, Tore, come arrivo? Tore, se siamo a Tore, io sapevo che la Tore non cambia. A pulire la benzina di andare. E beh, Lillo! Chi è? Lillo, butta giù la pasta, è pronta! Trovi la buona, rimami, cazzo diavolo! Chi ci dà, Zemmi? E cosa riprende? Magna di salsiccia! Uia, ho mangiato mezzo chilo di spaghetti alle olio, ho già, è una bistecca, te qua, mezzo litro di vino bianco, adesso siamo a posto. Ah, qua ti trovi, saluti. E la siamo a fuga, a faccio lo serire, date salato, un cancello, già prodotto. Ascolta, puoi entrare in macchina, lei. E allora, cazzo pure la rimango con la macchina, dentro devo entrare, allora. No, pensavo che stai nella cabina. No, non ci sono il cambiotto, sto in macchina. Accendo la televisione, guardo un po' di televisione, un po' di Facebook, un po' di TikTok, da voi mezz'ora già me la faccio, non è che dormo, mezz'ora chiudo un occhio, Ma non è passa di rotto. Ma la facciamo, sì che la facciamo una donna. La donna, se no, 50 ettari di terreno solo. No, perché io mi ricordo, avevo un amico che faceva la guardia giurata nelle ville, in una villa di una persona famosa di Sassa, e faceva l'antisequestro. E passava la roba a controllare, a vedere se stava facendo il servizio, capito? Allora, prima c'erano, io quando facevo le ronde, ti parlo di 20 anni fa, facevo le ronde e prima mettevamo il bigliettino, mettevamo, poi alla fine c'erano i furbetti che aprivano l'orologio, non so, quello che timbrava, schiacciava e timbrava, c'era il dischetto dentro, no? E timbrava ogni ora. I furbetti aprivano, se avevano fatto la chiave, aprivano e timbravano le ore, ogni ora timbravano già. E si stavano in macchina tutto il tempo, capito? Non andavano a fare la ronda. Poi alla fine hanno messo questo lettore digitale, andavi con questo lettore, timbravi come un telefono, una fotocilla, andavi lì davanti al lettore e timbrava e segnava la centrale. Capito. No, ma stiamo parlando di ronde di controllo, che controllavano proprio, erano guardie giurate che li mandavano a controllare se tu stavi facendo bene il servizio, se eri drumido, se stavi bevendo, tutte queste cose qua, capito? Sì, una volta sì, ma no, è impossibile che te le mandavano, venivano loro a farti un giro, perché non te le mandavano, però c'era un pezzo di merda che era venuto, un ex carabiniere che era con nulla, volando, e lui doveva fare il servizio tutto da un'altra parte, è venuto dove ero io e mi ha trovato sì, addormentato, ma avevo fatto tutto il servizio la mattina, però avevo fatto la banca, dalle 7 del mattino gli ho fatto l'apertura perché controllavo il cavo, e fino alle 2:30, fino alle 2:30, poi la sera dovevo rientrare alle 8, è normale che ero stanco, che mi si calavano gli occhi. Cazzo, è venuto questo, cazzo, addormentato, se adesso lo dico al capasco, fa una cosa, se io domani ti torno a trovare qua, ti sparo l'altra gamba, già che era troppo, ti sparo l'altra gamba, gli ho detto, non c'è più venuto. Oh, yeah. E bastardi ci sono sempre, di chi? Sì, ma una volta glielo ho detto, non c'è più venuto, ma non mi fa fregare, infatti gliel'ha detto al capozona che l'ha addormentato, e gli ha detto il capozona, e tu cosa cazzo ci facevi da Rai, nella zona di Rai? Che succedevano cose nella sua posizione, erano cazzi sui, a te che cazzo te ne fregava di andare nella sua postazione? Che era 40 km da dove ero io. E che era. Quindi la sua postazione è rimasta vuota, senza nessuno. Appunto, era vuota sì, perché lui andava a controllare gli altri, capito? Questo pezzo di merda. E a che pro? Ah? A che pro? Non ho capito. Ho detto a che proposito. Che proposito, per farci vedere che lui trovava la gente addormentata. Io glielo ho detto al capozone, il giorno che lo torno a trovare, che lo trovo, lo vedo, torno qua in circolazione, io non dico chi è e chi non è, gli sparo l'altra gamba, se no ripari in fronte direttamente. Un bergamasco del cazzo era, non lo potevo vedere, tutti i bergamaschi non li potevo vedere. Che appagato. Vabbè, c'era sono diffusi così, i lecchini, c'era proprio anche io, lavoro i lecchini che andavano a cascettare tutta la principale, che poi ci ricamavano, non dicevano mai le cose com'erano, capito? Tu eri partito alle 8, dicevo, lei dalle 7 che è partito ancora non è tornato, capito? Io eri partito, e come ho fatto a partire alle 7 che ho detto la principale, se io entro alle 8 a lavorare. Così quando lavoravo nell'edilizia, lo stesso, c'erano un'impresa di bergamaschi e stavamo facendo rifinitura nei terrazzi, nei palazzi. Cazzo, vuoi soffrire dalla mattina a festa a voci, una volta, due volte, la terza le ho detto, ascolta, o te ne vai, eravamo supportivo, o te ne vai, mi, ho preso un pezzo di ferro, te la leggo nel collo e ti appendo, gli ho detto, vattene via perché sennò ti ci butto giù, gli ho detto. Sì, c'è gente sempre che è allo stesso tuo livello, non vuole comandare, vuole far vedere di essere superiore, e chi insomma, va, per farsi voler bene dal principale, capito? Ma si è attaccato male il barò, quello l'altro bergamasco ha preso i piedi e si è fuggito, anche ha pensato che cazzo è che manca te che mi sono curioso e non ti ha rubato io il ponteggio eravamo cazzo te la mandano chi si cazzo di repara oh ma te ne va ma te ne sei attenti parlando di questo ma te ne andi o no cazzo ho preso un pezzo di ferro quello grosso per legare portici, no? Che usano per legare i portici. Cazzo me, te lo leggo nel collo, le ore se ne taglia, te lo leggo nel collo e ti ci butto giù. È abbassato le origini. E da giorno non ha più detto, non ha detto più va. Infatti quando mi vedeva, cazzo tu sei matto Manuele, ah matto sono, adesso sono matto. Non svegliate qualche dopo. Cazzo tu tranquillo, dico cagazzo di Romanzano Ghetto che sia famoso, ma ha mandato di sane, cazzo, e loro ci tentano, fai tradattore. Io sono qua, però lo so che devo allontanare. Ciao, ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao Antonello, ciao Gianni e ciao Manuel. Ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao a tutti. Anche agli ascoltoni. Ciao Antonio, buon proseguimento, dai. Ci sentiamo, buona cena. Avanti Manuel. Ciao Tom, buona carica con tutto, dai. Vai a fare visita ogni tanto a Gio Maria, Per il momento non posso fare nulla, sono sempre impegnato, quindi non posso fare nulla per il momento. Però mi libero. Sì, sarà andata un giorno. Bianco, per me, arrivo subito. Mattina. Appena mi libero ci vado. Vabbè, ci risentiamo ragazzi, statemi bene. Ciao, ci sentiamo. Avanti Manuele. E beh, pesci, parate. No, pesci quelli lì, corridora. Cazzo, le lumache le ha pulito l'acquario, dalle lumache. Qualche luna ce n'è ancora. Cazzo, gli ha mangiato il bogo. E poi salgono, scendono. Anche a te fanno così questi pesci. Salgono, scendono. Cazzo, un fuetto è il corrente. Se si chiamano corridora sarà quello, sì anche con me. Addirittura salgono a mangiare da sopra il mangime, anche se sono pesci di fondo, vanno su a mangiarsi il mangime e pure scendono, sembrano saette. Lo so, a me mi hanno mangiato anche gli avvaluti, molti avvaluti me li hanno mangiati, ne sono rimasti pochi. Oltre le lumache, proprio ci sono solo quelle che avevo da prima, quelle rigate, quelle che aveva tutto proprio sono sparite, non ce n'è più una, nemmeno le grosse pure ci hanno rimaniati. Ma devono essere, come si chiama, i Buttia, perché i Buttia ce li avevo da prima, quindi probabilmente sono loro che se li hanno mangiati, sono sparite da quando ho messo gli altri due Buttia, ne avevo due li ho messi, adesso ne ho quattro. E poi c'ho anche il corridore, se devo prendere il corridore su quelli maculati, e poi un altro tipo di pesce che rimane allungato, è tipo corridore, spero rimane allungato, se non mi ricordo come si chiama, un bel bello, è sempre di fondo. A me non mi piacciono quelli che sembrano le tarantole, mamma mia che schifo. Cioè quelli che si attaccano, ecco. Quelli sono fenghi di droga. Due ne ho io, perché quando avevo comprato l'acquario mi avevo dato insieme ai pesci, no? E c'erano, cazzo, io non sapevo che c'erano questi pesci qua, cazzo, vado a pulire l'acquario, l'ho spostato nell'altro acquario più grande, cazzo, ho pulito, stavo pulendo il vaso, che cosa, c'era questo pesce attaccato dentro, cazzo, mi ha puntato, ma cosa cazzo vai a attaccare, cazzo, di nuovo che aveva un pesce attaccato. Sì, sono notturni quelli lì, escono di notte, escono di notte, ma sono fenghi di drone, sembrano, come si chiamano, non le lucertole, sono detto del tarantola, quelle che escono di notte. Che cosa fanno quelli? Niente, non puliscono un caschio. E il vetro puliscono con quella ventosa. Poi ci sono quelli per pulire il vetro che si chiamano pesci ventosa, che si attaccano ai vetri e li pulistano sempre pure del vetro. Ma io voglio mettere quelli là, i butti, a due butti. Il corridoio rasso li ho messi, due grigi e due gialli sono quattro. Ma i butti a Manuè sono pesci di bravo, ne devi mettere quattro, cinque, capito, tutti insieme. Perché vanno insieme, sono di bravo. Cazzo, 20, 40, 40, 60, cazzo, tanto è dei pesci. Non ricopri da cinesi, a settembre. Ma se li riportano, lei ha detto che già li portava, bisogna vedere, bisogna vedere. Ma lui, se sono a sentiero, per lo vedi quattro ne aveva uno, io quando ho preso i corridoras ne aveva uno di questi butti, ma era piccolino piccolino. E farò voi qua, no? Se sono più grandi, se li porto, dovrei portarli fa un paio di settimane che dovrò fare il carico di questi pesci qua. Detto, vabbè, se il caso è, allora ci passo, fa un paio di settimane, vediamo, perché ne aveva solo uno di questi botti qua. Non si è uscito. Ho detto di a cambiare l'acqua. E ragazzi, di casco, c'è un balletto. No, c'è la pulita, quelli che ho preso io, con i dollari, se c'è la pulita l'acqua. Non era gialla, Ma i corridoi non li hai presi d'acqua azzurra? Non li hai presi d'acqua azzurra i corridoi? Sì, però era andata a vedere se c'aveva questi, era andata a vedere questi corridoi sicure. Però mi ha detto che lì devono arrivare fra un paio di settimane, gli ho chiesto. E me ne dava settimana, quelli che c'hai tu. Quelli, come cazzo si chiama, i butti, ne aveva solo uno. Mi sa che andava a rubaccato di Ciguveni. Cosa? Che Ciguveni andava a rubaccato. Ah, ma già, aspetta. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po' se in caso è, se ce li ha, se no rimane lì se buco. Ma infatti sono nati qui i gupi. Cos'è già? I gupi nati sono. Sì, mi sono nati piccoli, c'ho ancora quelli che mi hai dato tu, quelli neri. A me ne sono nati tutti con la coda enorme, tutti colorati, rossi, azzurri, belli, veramente belli. È un incrocio che ho fatto io, che ho messo io, e si sono incrociati e l'hanno fatto veramente belli. Sono meglio di quelli proprio di razza, sono tutti colorati. Mi davano un paio, te le pago quando sono più grandi. No, questi qua non li do. C'hanno la coda, non è truvi così, c'hanno la coda un po' grande. No, e poi ne ho due o tre di questi qua. Poi gli altri sono normali, capito? Non ne ho tanta. Ti ho dato quella femmina lì è stata accoppiata con pesci belli, quindi dovrebbero nascerti belli. E poi io sinceramente in quella vita non ho più visto la femmina, vedo quelle piccoline boh. C'è la barana bagnata, le gambe. Che cazzo mi sono così, boh, ma adesso. Io con la femmina vedo gli altri, quelli più piccoli, che mi avete dato quelli più piccoli pure, quelli già ci sono. Ma quelli sicuramente ce n'è qualcuno con la coda grande, perché a me due o tre ce ne sono, ma ce l'hanno grande grande proprio a ventaglia, insomma è bello, loro sono piccoli, tutti colorati, ma piccolini e con la coda grande. Adesso se li trovo lì dal cinese che ce li aveva, belli, arancioni, io ne ho preso 3 o 4 arancioni. Ma che cosa di... ribisti? Di guppi, ne ho preso 4 da lì, arancioni. E i guppi si chiamano ribisti in cose, in latte. E vabbè, come si chiama? E li ho presi così, arancioni, belli sono. Maschi ha preso, dai. Ma deve avere sempre più femmine che maschi, perché se no le assidano, li stanno a prezzo di 50 e la fanno morire qui, la maternizzante, capi? E cosa cazzo devi sapere se sono maschio o femmine? Cazzo, quella da dire tutti così, non lo sanno neanche loro se sono maschio o femmine. Perché tu quando li prendi devi andare con me, te lo dico io. Allora i maschi sono sempre più colorati, ricordati questo. Le femmine sono meno belle, i maschi sono quelli tutti colorati. E le femmine rimangono sul grigio, sul nero, e se ne accorgi dal colore, sono sempre più belli i maschi. E vabbè, già manca la vale per studia, per carità. Quindi qualche giorno vieni a farmi il coso della... coso dell'acqua, ho già, il test dell'acqua. Ma te l'hai comprato? No, lo devo prendere. Quando sarà me lo fai tu, io no, non so, non l'ho mai fatto. Poi mi fai vedere come e poi lo farò anche io. C'è scritto come fare. Praticamente devi mettere un po' d'acqua, ci metti queste gocce dentro l'acqua. Quando tu guardi il colore dell'acqua c'è una tabella dove ci sono tutti i colori dell'acqua, in ogni colore c'è scritto da quante di pH, capito? Per dire l'arancione è pH 9, il verde è pH 4, capito? C'è scritto nella tabella, c'è una tabella con tutti i pH e pila, con i colori. Il colore che ti esce l'acqua con il pH che c'hai. Non l'ho mai fatto. Io gli avevo messo l'acqua, però non è controllata. C'era stata batterica, cazzo me l'animo che tutti. Poi te ne accorgi un'altra cosa. Le lumache vanno tutte in alto quando l'acqua ha il pH alto. Se ne vanno tutte verso sopra. Non stanno giù, vanno tutte verso l'alto. Vanno verso tutto l'alto o per che cosa? Quando il pH è alto, le lumache vanno verso l'alto, verso la parte alta dell'acquario. Quando è basso, quando è normale, stanno. E stavano anche giù le lumache, cazzo non è visto che stavano giù le lumache e camminavano sotto. Cazzo, ma quelle che c'è giù sono lumache, vanno in giù, a me non mi dice un pochino da che si danno maniati. Le dovevi dare a me un po', me l'avrei messo, sai dove? Me l'avrei messo dentro la sala fatta, di modo che non si rimanga, le faccio diventare grandi e poi le metto. Ma non ne vanno, guarda, sono domande che non valevano un cazzo, già ne fa. Cazzo mi riempiva due volte, mi ha intasato il filtro, non mi faceva uscire più l'acqua dalla pompa. Sì, perché quando sono state così, Manuele, devono essere giuste, dai, 4 o 5 vanno bene, grandi, però non piccoline. Le piccoline vanno in mezzo alle alette del filtro, fanno un casino. No, io grazie a Dio ce l'ho bello, non posso lamentarmi, tranquillo, il filtro, ogni tanto pulisco il motore, smontabile, quello che ho comprato, che l'ho messo nuovo, che la pressione è barrata, è smontabile, lo smonto, lo pulisco con lo spazzolino da lì, che quegli spazzolini che non uso più, io li uso per queste cose, non per pulire l'interno, eccetera. Guarda che interessa esterno, la pompa esterna, che tanto non lo uso, dentro la scatola. Vedi, te la metti là su quei campani di acquari, lo trovi subito l'acquirente. Dove ci sono quei, dove vengono l'acquario, questa roba qua. Se l'ho mandato, che fare? Sì, ma spedire non spedisco, se qua in zona è un altro discorso, ma spedire non la si vale, va a pack, pacchettini. Se va per pagare la spedizione, scusa. No, ma non c'ho voglia io di stare a spedire a fare. Tu sei peggio di me, anche io sono così, ma mi piace. Mi piace se vengono qua, se lo vengono, se lo prendo e via di gente. E invece c'è molta gente che spedisce. Spendendo così. Vabbè, no, adesso l'ho acceso, dopo prima di andare a lavorare lo spengo. L'ho acceso alle 6, alle 9 e mezzo lo spengo, 10 minuti qua lo spengo. Ma chi si resta sentendo la mattina? Ah? Camionisti la mattina alle 6, ma in macchina te lo vedo. E cosa? La palazza. Ma che mondo con palacchina e macchina? Vedi, invece ci avrebbe fatto compagnia. Ma va, non ci sono, non c'è più, non ce ne sono più camionisti già usati. Camionisti, ormai sono, vanno tutti in digitale. Si sono attrezzati col telefonino adesso, c'hanno viva voce, parlano col telefonino, oppure vanno in quella, in quell'app che, dove si modula, e cosa, parta cosa è, boh. No, non è parta, che, boh, non me lo ricordo come si chiama. Vabbè, io sono entrato un paio di volte, ma non mi è piaciuta, è fretta come. Sono entrato una volta, break, posso entrare in questo canile? Cerca di parlare bene! Ah, vaffanculo, sto scherzando, mamma mia. Subito un gatto attaccato. E dopo sono tutti di burazzo. Ma infatti, no. Poi è freddo, non vedi l'apparecchio, è inutile, c'è poco da fare. A me mi piace vedere l'apparecchio da qua, c'è la stazione illuminata. E sarò caro, quello di... No, ma c'è così, neanche a me piace, neanche a me piace così. Vabbè, già, io ho da approfittare a chiudere, dai, mi salgo un pochettino, alle 9 un quarto mi vescio, senza le 6 mesi. Auguri, Manuel. Dai, ci sentiamo, anche io vado a portare il cane adesso, dai. Non me racconto che era così tanto. Ciao, ciao, buona serata. Buona serata anche a chi gli ascoltatori. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.